известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Are you prepared to take the oath, Senator? I am. I, Barack Hussein Obama. Allora, questo è il giuramento numero uno, Do solemnly swear. That I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute the faithfully the office of President of the United States. The office of United States. Dai, Barack, su, dai. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Ma quali congratulations, Mr. President? Non è andato bene, il giuramento non ha funzionato, è stato bocciato all'esame di giuramento il presidente degli Stati Uniti d'America numero 44, Barack Obama. Tanto è vero che ieri in sordina, cari ascoltatori, hanno richiamato i 4 milioni di spettatori, sono dovuti precipitarsi a Washington, no, stiamo scherzando, invece sono andati così un po' alla chetichella, sono andati alla Casa Bianca il giudice Roberts, quello che ha presieduto al giuramento di Barack Obama, e credo pochi intimi, insomma sicuramente una cifra inferiore al 1,5 milioni di persone. E sapete che hanno dovuto fare? Hanno dovuto rifare il giuramento, perché il primo se lo erano ascoltato e riascoltato e hanno detto che non era proprio ineccepibile da un punto di vista costituzionale, gli americani a queste cose ci tengono, conveniva abbondare in attenzione, ad abundantiam, per essere sicuri, hanno detto il consigliere Greg Craig, quello, il consigliere giuridico del presidente, che a un certo punto ha detto: dai Barack, rifacciamolo, e questa volta per favore non sbagliare. Ascoltate. Ha detto: questa volta parlerò molto piano, ha detto Barack Obama. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Che Dio mi protegga, congratulazioni numero due, stavolta ce l'ha fatta, per carità, non c'è neanche un video, pensate, di questo evento, c'è solo un triste piccolissimo file audio, che è quello che avete appena ascoltato, che certifica, testimonia che alle 19:35 ora di ieri di Washington il presidente Obama si è, come dire, riconfermato se stesso, insomma si è riconfermato presidente, e ha scherzato anche uscendo dalla map room dove si è svolta tutta la questione, quando il giudice gli ha detto congratulazioni di nuovo, lui ha detto grazie, ha ricevuto l'applauso dei pochi giornalisti presenti, poi ha detto, rivolto appunto agli astanti, ha detto: bene, adesso vi do la cattiva notizia per tutti voi, ricominciamo, abbiamo 12 balli pubblici da fare. Vabbè, si può anche scherzare, anche perché poi, insomma, per fortuna ieri non ha fatto solo quello, ha fatto molto altro, ha cominciato a muovere le pedine, le carte e anche la penna, quella con cui mette firme sotto nuove decisioni. Oggi proveremo un po' ad attraversare insieme queste primissime ore di insediamento accanto al quale parallelamente ne corre un altro, tra l'altro. Tutto si sta muovendo contemporaneamente. In questo momento le televisioni americane stanno mandando in diretta i momenti di attesa che circondano la conferma di Tim Geithner a segretario del Tesoro, una conferma spinosa ma necessaria, sapete. Questa carica va naturalmente ricoperta e resa attiva al più presto per far sì che, insomma, il tentativo di intervento sull'economia sia efficace, tempestivo e soprattutto soprattutto operativo da subito. C'è un'entrata in aula in questo momento della commissione, corre anche il rischio che sentiamo qualcosa in diretta, dovrebbero mancare pochi minuti. Le televisioni, ripeto, stanno già mandando le immagini di questo avvicinamento. Poco fa, invece, direi una mezz'oretta fa, erano le 9:30 ora di Washington, quindi le 3:30 ora italiana, un'altra nuova impiegata, dirigente, anzi diciamola tutta, ha preso servizio, una bella signora bionda che risponde al nome di Hillary Clinton, è arrivata al Dipartimento di Stato, è stata accolta in un modo trionfale a dir poco, insomma nella hall del Dipartimento si sono radunati centinaia e centinaia di dipendenti del Dipartimento, c'è stato un lungo discorso di benvenuto e poi c'è stato un altrettanto intenso discorso di ringraziamento di Hillary Clinton, tra l'altro un discorso anche fatto con la bacchetta, con il righello in mano, perché ha detto: guardate che una delle cose che vogliamo fare il presidente ed io è far sì che all'interno di questo dipartimento finiscano le frizioni, le divisioni, gli scontri che hanno causato poi in passato, nel recente passato, tanto detrimento all'attività del dipartimento stesso. Poi con entusiasmo ha detto: sarà una grande avventura, ho un grande senso, provo un grande senso di gioia, di responsabilità e di impegno. E ha annunciato, tra l'altro, che tra poche ore, ed è un fatto anche questo confermato dalle stesse televisioni, lo stesso Barack Obama, accompagnato dal vicepresidente Joe Biden, andrà al Dipartimento di Stato, proprio perché attorno al Dipartimento di Stato e quindi alla politica estera americana si muovono alcune delle principali decisioni che Barack Obama prenderà per prime, come aveva promesso di fare. Ma ascoltiamo qualche parola da Hillary Clinton nel suo discorso inaugurale, un discorso informale però anche contenente un forte senso programmatico sulla missione di questo dipartimento che lei giura riporterà all'antico splendore. President Obama set the tone with his inaugural address and the work of the Obama-Biden administration is committed to advancing America's national security, furthering America's interests and respecting and exemplifying America's values around the world. Rispettare e esemplificare i valori americani nel mondo, questa è una delle tre priorità appena annunciate da Hillary Clinton come missione, oltre naturalmente a rafforzare la sicurezza interna dell'America, ha annunciato Hillary Clinton in questo suo eccellente, lucido, semplice, chiaro discorso appena pronunciato, in cui ha detto una cosa altrettanto semplice e interessante e in un certo senso anche emozionante da dire. Dice: nel corso della mia audizione in commissione, dove è stato approvato il mandato che poi mi è stato conferito e confermato, tra l'altro il mandato è stato confermato con una votazione straordinaria ieri, vi do i dati, è 94-2 è stato il giudizio del Senato, erano presenti 96 senatori, 94 hanno votato a favore, soltanto due espressione della opposizione repubblicana hanno detto di no, esattamente l'ultraconservatore David Vetter della Louisiana, che lo aveva anche reso pubblico, e a cui si è aggiunto all'ultimo momento Jim DeMint della South Carolina, poi il via libera era peraltro considerato scontato per Hillary Clinton, anche se qualche perplessità, come ricordate, alcuni giorni or sono era stata destata dai legami di suo marito Bill e soprattutto della fondazione di Bill Clinton con alcuni governi stranieri. Ma vi dicevo, ha detto una frase particolarmente interessante: for the advice and counsel, ha detto: io in quel incontro con i governanti americani ho parlato di smart power, ho parlato ripetutamente di questo concetto come il concetto che informerà, che guiderà questa mia presenza al Dipartimento di Stato. Smart power vuol dire potere intelligente, potere che si sa fluidamente coniugare a seconda delle necessità, a seconda degli scenari, proprio con la capacità di comprenderli, di analizzarli e di trovare soluzioni giuste. Ebbene, adesso aggiungo qualche cosa proprio di fronte a voi che sarete protagonisti con me di questa avventura. Per avere smart power ci vuole smart people, per avere un potere intelligente ci vuole gente intelligente. Tra l'altro, il Senato ha rimandato il voto sulla nomina di Eric Holder al prossimo ministro della giustizia di Obama. La decisione è dovuta all'opposizione di alcuni senatori repubblicani, secondo i quali Holder dovrà rispondere a ulteriori domande davanti al Senato prima di assumere l'incarico. Si sapeva che le due decisioni spinose erano Holder e Geithner. Ascoltiamo un attimo in diretta la commissione Geithner. We are told it could happen any moment now as they review whether or not Tim Geithner should be our next Treasury Secretary. Of course, this has been controversial because Geithner admittedly failed to pay his taxes. Sta aspettando la decisione. Da un momento all'altro sono già seduti in riunione i membri della commissione di senatoriale che dovrà prendere la decisione. È ancora rinviato di qualche istante il verdetto. È un verdetto molto importante. Naturalmente uno stop a Geithner sarebbe un serio inciampo per il sano sereno avviamento dell'amministrazione Obama. Nel frattempo Obama, come vi ho detto, si è mosso, sono molto interessanti e saranno al centro soprattutto dei vostri punti di vista attraverso i pareri che ci avete inviato rispondendo alle nostre domande, ai nostri appelli, ai nostri argomenti messi in bacheca su Facebook. Io vi ricordo che ci sono due siti di Jefferson 2 attivi su internet, entrambi fanno capo a Facebook e si chiamano rispettivamente Redazione Jefferson 2 e siamo noi, serve a parlare, a proporre, a discutere con la redazione di questo programma. Poi ce n'è uno che si chiama Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, che gli iscritti, e vi invito ad iscrivervi, avranno già capito che è interattivo, cioè vi veniamo a scocciare noi, vi scriviamo noi, vi proponiamo dei temi, ve li mandiamo grazie alle tecnologie disponibili, e tanti di voi aderiscono, rispondono, dicono cose molto interessanti che noi poi cerchiamo di rendere note, di mettere in circolazione qui in trasmissione, perché proprio nella edizione 2009 di Jefferson, questo è uno degli intendimenti, è una delle idee, provare a far come dire, collaborare anche voi, intanto così, poi man mano che il programma va avanti vedremo e ne parleremo alla realizzazione di questo programma che vuole guardare a 360 gradi sul mondo e con particolare attenzione all'America. Vi dicevo, è intervenuto diverse volte ieri Barack Obama, uno degli interventi, forse uno dei più semplici, anche se vogliamo anche dei un po' più populisti, più visibili, però gradito sicuramente al grande pubblico, è esattamente questo. During this period of economic emergency, families are tightening their belts, and so should Washington. And that's why I am instituting a pay freeze on the salaries of my senior. Insomma, questo è Barack Obama che dice che l'aria per quello riguarda la situazione in America è tutt'altro che buona, bisogna stringere i cordoni da borsa e anche la cintura dei pantaloni, tanto per essere chiari, e di conseguenza dice sarà bene che a dare l'esempio siamo noi qui di Washington. Il presidente degli Stati Uniti Obama ha infatti deciso di congelare gli stipendi dei dipendenti della Casa Bianca che percepiscano più di $100,000 l'anno, circa 75.000 euro, indipendentemente dal settore in cui lavorano. Se si guadagna di più, non si guadagnerà ancora di più. Parlando durante la cerimonia della conferma delle nomine di alcuni membri dello staff della Casa Bianca, ha sottolineato Obama proprio che le famiglie americane devono stringere la cinghia, e lo stesso farà Washington, e ha sottolineato che lavorare alla Casa Bianca è un servizio pubblico. Come tale va considerato anche un grande, enorme, temporaneo privilegio, motivo per cui bisogna fare l'interesse degli Stati Uniti e impegnarsi a costruire un governo più affidabile. Vi ricordo che è atteso per oggi l'ordine di servizio da parte del presidente Obama per l'avvio dell'iter di chiusura del controverso carcere di Guantanamo, e proprio su questo verterà la seconda parte del programma attraverso i pareri che voi tutti ci avete offerto, inviato, i punti di vista contrastanti ma comunque interessanti. Lo hanno reso noto in serata tanti media americani citando fonti interne al Congresso e precisando che l'ordine di Obama dovrebbe riguardare anche anche le nuove procedure in materia di interrogatori di sospetti di terrorismo. Quindi ci cominciamo a muovere anche intorno di quella polemica sulle torture o comunque sulle tecniche di interrogatorio utilizzate dagli americani negli ultimi anni e che aveva procurato molti grattacapi all'amministrazione Bush, accusata di permettere alla CIA di procedere con tecniche che potevano sconfinare appunto nella tortura. Barack Obama in campagna elettorale aveva promesso di intervenire su tutto ciò e ora sarebbe in procinto di farlo, ma vedremo sia in diretta le notizie e poi comunque i vostri punti di vista. Nella visita al Dipartimento di Stato è immaginabile che altri argomenti verranno toccati da Barack Obama. Probabilmente si parlerà di Afghanistan. Certamente Barack Obama ha già incontrato alcuni dei vertici militari americani, ha chiesto di raddoppiare gli sforzi, testuali parole, per arrivare, testuali parole, a un ritiro responsabile delle truppe dall'Iraq. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa del governo, il presidente avrebbe chiesto ai consiglieri militari di impegnarsi nella pianificazione necessaria per arrivare a un ritiro militare responsabile dal paese. E anche questa una conferma che Obama cerca di dare alla promessa di impegnarsi anche su questo tema fin dal primo giorno. Tra l'altro pare proprio che è vero, gli hanno lasciato il BlackBerry, lui ha detto toglietemi tutto, faccio il presidente, toglietemi tutto ma non mi togliete il BlackBerry, e gli hanno detto no, guarda che il BlackBerry tu lo devi mollare perché in quanto presidente qualsiasi parola pronunci, qualsiasi cosa scrivi è ufficiale, deve essere pubblico dominio, controllabile, quindi noi no. Invece pare che alla fine abbiano trattato, gli hanno dato un BlackBerry pazzesco, super criptato, che secondo me lancerà anche aghetti di quelli avvelenati, ma funziona. Abbiamo altre notizie su cui procedere, soprattutto una storia grossa di Casa Kennedy, ma prima un po' di musica. Che ha un disco in uscita, ma questa è una malignità che solo noi potevamo pronunciare, ma di Springsteen non si è sentito parlare per mesi e mesi, adesso è dappertutto come il prezzemolo, ha suonato praticamente a ogni apparizione di quelle che contano di Barack Obama, non ultimo domenica al Lincoln Memorial, è in copertina sul nuovo numero di Rolling Stone, il quindicinale simbolo di un paio di generazioni americane. Parla anche a tutto tondo, parla anche di politica, tra l'altro annunciano anche le date italiane, sarà in Italia, ormai l'ho detto e vi do le date: 19 luglio a Roma, 21 luglio Olimpico di Torino, 23 al Friuli di Udine, ma comunque insomma ha soprattutto fatto le sue personali feste a Barack Obama dicendo che era qualcosa che aveva sognato e che adesso davanti ai suoi occhi esiste, che quindi conferma tutta la sua adesione. E where is the beef? Dov'è la carne? Dicono gli americani. Vogliamo la sostanza. Ormai i festeggiamenti li vogliamo considerare conclusi, quindi invitiamo anche i celebri ormai a starsi zitti, tornare a casa. Vogliamo vedere che cosa fanno questi nuovi governanti americani, nuovi governanti americani dei quali ha deciso alla fine, e questa è una notizia piuttosto grossa, anche abbastanza sensazionale, ha deciso di non far parte Caroline Kennedy, a lungo indicata da tutti i bene informati come la sicura sostituta al seggio senatoriale lasciato libero da Hillary Clinton dello stato di New York. All'ultimo momento si è ritirato, notizia di poche ore fa, ha confermato di aver ritirato la candidatura al seggio americano, e sembra, inizialmente si diceva per i malanni di suo zio Ted Kennedy, di cui adesso vedremo un aggiornamento dello stato di salute. In realtà i ben informati dicono che non è così, le cose non stanno così. Pare infatti che il governatore dello Stato di New York, David Paterson, colui che ha diritto e mandato di scegliere il sostituto di un senatore uscente, come l'ottimo Blagojevich, no, ha deciso per quello riguardo lo Stato di Illinois, per il seggio lasciato libero a Barack Obama. Ebbene, David Paterson, che tutti davano come certamente assoggettato alle decisioni di chi contava e quindi pronto a offrire questo seggio in premio a Caroline Kennedy per l'estrema, ravvicinata collaborazione con Barack Obama, invece lui la pensasse in modo completamente diverso e che le sue simpatie in realtà andavano tutte a Andrew Cuomo, il figlio di Mario Cuomo, un politico di professione, di lunga data, di ottima esperienza, forse secondo Paterson, anzi certamente secondo Paterson, più adatto a occupare questa posizione. Di conseguenza, niente da fare, sentiamo. Kennedy's withdrawal seemed to throw Governor Paterson's office into a tailspin. There were conflicting reports about whether she was in or out. Shortly after midnight, a Kennedy spokesman released a single sentence stating, I informed Governor Paterson today that for personal reasons I am. Ecco, questa è la conferma. Caroline ha informato ufficialmente Paterson di non voler essere più della partita. Vi dicevo di Ted Kennedy, buone notizie, è stato dimesso dal Washington Hospital Center, dove è stato trattenuto per una notte in osservazione. Ha ripreso, pare, già la strada di casa, di buon umore. I medici gli hanno detto, per favore, riposati, smetti di partecipare alle inaugurazioni, non te lo puoi più permettere. Il collasso, secondo quanto emerso, è infatti stato causato dall'affaticamento. Dopo gli esami condotti, riteniamo che il malore sia stato causato semplicemente da affaticamento, ha detto Edward Aulisi, il primario in neurochirurgia, che ha preso in cura il vecchio senatore, a cui vanno anche gli auguri del nostro piccolo programma. Tra un po' si parla di voi, voi sarete a parlare attraverso Facebook, e parleremo di Guantanamo, di questa ipotesi di chiusura estremamente ravvicinata, e vi daremo anche aggiornamenti su questo esito della commissione Geithner, ovvero se l'America ufficialmente ha un segretario del tesoro attivo o se deve ancora attendere altri step. Ne parliamo tra poco. We used to laugh, we used to cry, we used to bow our heads then, wonder why. Now you're gone, I guess I'll. Make the best of what you've left to me. Left to me. Left to me. I need you. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Proprio in questo momento esce un alert, un segnale di attenzione, un richiamo agli spettatori delle televisioni americane, perché Barack Obama sarebbe sul punto di segnare, arriva proprio in contemporanea con quella che volevamo fare, di segnare ordini esecutivi per la chiusura di Guantanamo, il campo di detenzione. Adesso viene definito montato dopo l'invasione in Afghanistan. Vediamo ancora cosa che informazioni ci danno. 525 detenuti rilasciati dal 2002. Il Pentagono sostiene che 61 erano seriamente coinvolti in episodi di terrorismo. Vediamo, si parla, secondo le fonti informative americane, di un programma per Obama di firmare 3 ordini esecutivi sul trattamento dei detenuti sospetti di terrorismo. Oltre alla chiusura di Guantanamo, ci vorrà un anno comunque, dicono i ben informati, a completare l'operazione. Saranno firmati infatti anche documenti sul divieto di tortura e sulle prigioni segrete della CIA. Allora, è questa l'area nuova di cui Barack Obama per 2 anni di campagna elettorale ci aveva parlato, perlomeno questo ne è un sintomo. Vi piace, vi interessa, vi sembra una strada giusta e percorribile? Come sapete, Jefferson 2 nella sua nuova confezione, nel suo nuovo formato 2009 utilizza le vostre voci e soprattutto i vostri pensieri per ragionare sui grandi temi dell'attualità internazionale, e a tutto ciò abbiamo dato un nome, una musica e soprattutto un invito che suona più o meno così. Express yourself, esprimetevi, dite la vostra, e lo state facendo con sempre maggiore adesione, insomma regolarità, tanti felici e fertili dal punto di vista ideativo sui nostri siti Facebook, redazione Jefferson 2, per parlare con la redazione e soprattutto la bacheca dove tutto ciò si muove, che si chiama Jefferson 2 Radio 24. Express yourself. Emiliano, cominciamo a leggere un po' dei pareri inviati. Intanto bisogna dire che la lista di commenti è piacevolmente lunghissima e ormai dobbiamo mettere in conto un po' di ore per sistemare tutto il traffico che c'è sui nostri siti di Facebook. Allora cominciamo da Silvia dall'Università Bicocca di Milano, che ci dice: Guantanamo è uno dei simboli dell'amministrazione Bush, e quindi sicuramente questo gesto di Obama ha la valenza di sottolineare fin da subito le differenze. Poi c'è Vincenzo che dice: l'era Obama sarà quella del multilateralismo necessario, coinvolgerà l'Europa, la Russia, la Cina e i paesi in via di sviluppo, e quindi la sospensione dei processi a Guantanamo ed eventualmente la sua chiusura è un gesto di distensione verso proprio l'Europa e i paesi islamici. Ne leggo ancora un altro, un po' immaginifico, anche un po' difficile forse da descrivere. Barack Obama soddisfa, questo è Roberto. Chi è? Roberto, Barack Obama soddisfa l'ancestrale bisogno dell'essere umano di adorare un semidio, e poi si chiede e ci chiede come si fa a dire di voler dialogare con l'Iran, un paese che vuole distruggere Israele con la bomba atomica, a quando dialogare con Osama Bin Laden, tutte domande retoriche naturalmente del nostro Roberto. Su Guantanamo Marco ci dice: beh, in linea di massima approvo, per qualificare il gesto come dimostrativo di giustizia credo si debba attendere ancora un pochino, le vere intenzioni dietro questo gesto si vedranno con più calma. Mauro: lo ritengo un gesto magnifico, rende immediatamente visibile a tutti che l'America non sarà più con le torture che combatterà il terrorismo, ma con la forza della democrazia, smart power, dice no Hillary Clinton, regola fondante della Costituzione americana. Dio come invidio gli americani. Gastone: sicuramente propaganda, ma la politica passa anche da qui e comunque la direzione è quella giusta. In fondo gli americani si possono permettere di sognare un presidente più giusto e umano. Noi italiani siamo fermi al sogno di un presidente non settantenne. Insomma, piace questa iniziativa, direi, di Obama, a parte qualcuno che ci vede qualche gesto di propaganda. Naturalmente siamo ancora a gesti per ora solo simbolici, ma d'altronde è appena cominciata l'amministrazione, quindi insomma facciamo ancora qualcuno. Vediamo Hermes, che è un nostro affezionatissimo, che ci scrive incessantemente, noi lo leggiamo di continuo. Obama ha bisogno prima di tutto di ricostruire agli Stati Uniti una verginità, di rimuovere dagli occhi e dai pensieri degli interlocutori i fattori di maggior contraddizione e impopolarità, e quindi in questo senso va anche il tentativo, scrive Hermes, di disattivare Guantanamo. Poi abbiamo Emanuele che scrive: credo che il problema di Guantanamo fosse il fatto che vigeva una sorta di realtà alternativa in cui non c'erano diritti, almeno così veniva percepito. Obama lo può anche chiudere, sarebbe un bel gesto, ma il problema di gestire chi c'era dentro rimane, e come se rimane. E c'è anche, aggiungo io a questo, in questo senso, un bel editoriale oggi sul Corriere della Sera proprio su questo dubbio e su questo problema che comunque Obama deve affrontare. E per concludere, una raffica di pareri, di espressioni da parte vostra. Elena dice: lo aveva promesso, no? Sembra un uomo di parola, ha ribadito il primato del diritto nel discorso di insediamento, mi sembra coerente. Gianfranco: occorrerebbe conoscere le motivazioni che Obama vi ha dato, comunque mi sembra un'operazione di facciata, ma in realtà quali strumenti abbiamo per esprimere un meditato giudizio? Silvia: ma da un lato non credo che Guantanamo sia tra le priorità degli americani, prese al momento più dal loro portafoglio. Alessandro: penso che sia un gesto importante, non importa come viene definito. Guantanamo è un luogo dove si svolgevano vergognose inciviltà. Carlo: Guantanamo, Benino, 7 più, la vera emergenza dell'economia. Mauro: ricordo quel villaggio vacanze su una bellissima isola caraibica, peccato, non doveva diventare la tenuta estiva dei Bush. Luca: porre attenzione dei primi giorni di presidenza su Guantanamo ha sicuramente un valore simbolico, ma non per questo meno importante. Gianluca: c'era altro a cui pensare. Giovanni: ritengo sia stato corretto a molti punti di vista. Davide: è un gesto sicuramente simbolico, la parola simbolica è la più utilizzata, ma è già tempo di notizie. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Dunque, io vi do una notizia di spettacolo, perché anche di questo tratta questo programma di vogliamo fare infotainment. Beh, allora facciamolo. Vi do che la notizia: sono uscite le nomination degli Oscar, ad alcuni, non moltissimi, interessano, e quindi vi dico che il trionfatore è Il curioso caso di Benjamin Button, il film, no, di Brad Pitt, 13 nomination, poi The Millionaire ne ha 10. Miglior film: Il curioso caso di Benjamin Button, poi Frost Nixon, il film di Howard, poi Milk, il film con Sean Penn di Gus Van Sant, The Reader e The Millionaire. Miglior regia: Fincher, Benjamin Button, Stephen Daltrey per The Reader, Ron Howard per Frost Nixon, Gus Van Sant per Milk e Danny Boyle per The Millionaire. Miglior artista protagonista: Richard Jenkins in The Visitor, Sean Penn per Milk, Frank Langella che fa Nixon, Mickey Rourke per The Wrestler e Brad Pitt. Onnipresente Il curioso caso di Benjamin Button. Attrici: Angelina Jolie per Changeling, Melissa Leo per Frozen River, Anne Hathaway per Rachel sta per sposarsi, Kate Winslet per The Reader, Mary Streep Il dubbio. Le statuette arrivano il 22 febbraio. Beh, direi che forse il più rivoluzionario di questi film è The Milk, perlomeno per il tema che affronta, anche se Gus Van Sant poi è un regista ben inserito nel sistema americano. Rapidamente una notizia dalla Cina che ci riporta a quello che abbiamo raccontato, vi abbiamo anche fatto sentire ieri, cioè questa censura nella quale è incappato Obama, che quando ha citato le parole fatidiche "ricordiamo le generazioni del passato che hanno sconfitto fascismo e comunismo", alla parola comunismo la TV cinese, che pure ha trasmesso in diretta il discorso di insediamento di Obama, ha abbassato il volume e ha cambiato completamente discorso e inquadratura. Ebbene, oggi il governo cinese di fatto difende il diritto alla censura della propria televisione. C'è un portavoce del governo che dice che c'è il diritto, insomma, editoriale dei mezzi di informazione cinesi di censurare appunto quello che vogliono del discorso di Obama. Quindi i cinesi non battono ciglio, vanno avanti per la loro strada. Le polemiche sicuramente fuori dalla Cina proseguiranno ancora. Abbiamo altri materiali, ma non facciamo in tempo a darli neanche oggi, perché siamo siamo in ritardo. Materiali interessanti su Gaza, ci torneremo prima sopra. Poi ce la faremo, il tema rimane attuale a lungo. Da domani normalizziamo alcuni spazi del programma. Leggo alcuni dei messaggi SMS appena arrivati. C'è molto interesse, devo dire, satirico più che altro, attorno al doppio giuramento di Barack Obama. Dunque c'è Jack che scrive: ma come è possibile dimenticare o fare confusione su una formula di 36 parole? Il giudice Roberts merita rilevante reprimenda, a mio avviso. Ma sì, però credo che sia Barack Obama che ha mandato in confusione il povero giudice Roberts della Corte Suprema, insomma, chiamalo povero, ma di fatto si è intromesso lì, i due hanno cominciato a pasticciare. Ma l'errore, precisa Sergio Milano, è stato del giudice, non di Obama. In Campidoglio il giudice ha invertito il faithfully, non Obama. Alla fine possiamo condonare entrambi. E nessuno dice che la seconda volta era senza Bibbia. Già è più grave. Non c'era né quella di Lincoln, che ormai l'hanno rimessa nella bacheca, né le altre. Come la mettiamo? Beh, io non credo che gli si possa chiedere un terzo giuramento. Invece hanno chiesto i gestori del Capitol Visitor Center, ovvero del centro visitatorio, cioè del bookshop del Campidoglio, di mettere fuori dalla porta tutte le merci cinesi, caro Emiliano. $100,000 di souvenir sono stati impacchettati e buttati via, perché da oggi in poi non si vendono più souvenir cinesi al Campidoglio. È cambiata l'aria, solo materiale made in USA. Ancora conferme o smentite, naturalmente, per quello che riguarda la nomina di Geithner al segretariato dell'economia. Tra l'altro aggiorno rapidissimamente la lista delle nomination agli Oscar, no? che vi ho dato poco fa, perché ce n'era una molto attesa, anche molto discussa, emotivamente molto sentita, se possiamo dire così, quella per Heath Ledger, scomparso, l'attore, il giovane attore scomparso qualche mese or sono, come attore non protagonista per The Dark Knight. Ebbene, è arrivata puntualmente questa nomination, che ha anche un forte profumo di Oscar, che peraltro è anche l'unica al film in questione, a Dark Knight. Comunque la nomination a Heath Ledger naturalmente c'è. esce una misteriosa agenzia così carica di angoscia e senza nessuna precisazione. Gaza, Al-Qaeda minaccia attentati contro Stati Uniti e Inghilterra, non si sa di più, non si sa nulla al di là di questo appunto annuncio propagandistico, e comunque risuona sinistro in questi giorni di ripartenza. Nel frattempo ha parlato anche il direttore dell'intelligence nazionale americana, Dennis Blair, ha detto che nella sua audizione al Congresso ha detto che Guantanamo è diventato un simbolo dannoso per l'immagine dell'America nel mondo e deve essere chiuso. Devono esistere standard chiari per un trattamento umano dei detenuti, ha detto la Commissione del Senato, standard che devono essere attuati da tutte le agenzie governative, compresa l'intelligence. In che direzione si stia marciando è piuttosto chiaro, vedremo gli ultimi aggiornamenti, ma intanto riprendiamo una vecchia abitudine, una vecchia strada così tanto battuta dal nostro programma in 2 anni di messe in onda, ovvero la strada per la Cina, dove incontriamo propriamente uno dei migliori amici di Jefferson, si chiama Daniele Barbone, fa il direttore di BPSEC, l'azienda che si occupa di certificare la qualità del made in China in arrivo sul mercato europeo. Tra l'altro la società di Barbone ha ottenuto un eccellente riconoscimento in questi giorni, il China Trader Award organizzato a Cathay Pacific per le aziende che lavorano proprio in questa opera di interconnessione, di interfaccia tra mondi sempre più vicini. Allora, complimenti e ben trovato, Daniele. Grazie, grazie, buonasera. Dunque, andiamo subito al sodo. C'è una notizia, come dire, che risuona anch'essa piuttosto angosciante, preoccupante, ma estremamente chiara forse nel messaggio che vuole mandare. La notizia è che sono stati condannati a morte 2 imputati per lo scandalo della melamina, di cui così tanto abbiamo parlato qui in trasmissione. All'ex capo della Sanlu, la ditta più importante coinvolta nella vicenda, è arrivato semplicemente un ergastolo. Condanne a morte eseguite. Dammi un commento. Daniele. Beh, rammentiamo che questa vicenda ha coinvolto la morte di 6 bambini e l'intossicazione di oltre 300 e che ha destato anche nell'opinione pubblica cinese grande attenzione. Il processo poi ha visto andare alla sbarra 21 dirigenti coinvolti nelle varie aziende che hanno avuto responsabilità in questa situazione che ha destato grande scalpore. Di questi 21 ci sono queste 2 sentenze di condanna a morte, alcuni ergastoli, tra cui anche quello della dirigente della Sanlu. Diverse condanne poi sono tra i 5 e i 15 anni e ancora si attendono alcune delle sentenze che arriveranno tra domani e dopodomani. Ma sono condanne, secondo te, destinate a essere portate in fondo, a essere eseguite? È molto probabile che verranno portate fino in fondo. Il governo ha deciso di stringere moltissimo su questa vicenda, anche perché è stata messa tra le priorità nazionali quella della sicurezza alimentare. Quest'anno, tra l'altro, si svolgerà il forum internazionale per la sicurezza alimentare proprio in Cina, voluto dalla Cina proprio per cercare di dare un impulso alla crescita di questa problematica. Nel tuo lavoro di certificazione, di verifica, di analisi, di ricognizione, però, dalle informazioni che ci dai, già ci sono nel tuo, ma soprattutto nel mirino dei responsabili, delle istituzioni, dei prodotti a rischio, possiamo parlarne? Certo, noi avevamo indicato già qualche settimana dietro che alcune delle priorità riguardavano sicuramente il comparto dei latticini, questo era abbastanza evidente. Dove ci sono proteine che possono essere in qualche modo simulate, ci sono altre possibilità di adulterazione. Quindi le riflessioni che facevamo anche con la redazione riguardavano sicuramente i prodotti a base di carne, a base di soia, e queste sono entrate anche nelle priorità nazionali. A queste qui, che noi avevamo individuato qualche tempo addietro, le priorità nazionali, come pericolo interno e verso l'esterno, dalla Cina verso il resto del pianeta, individuano anche le bevande e un settore che forse non avevamo visto per tempo, ma che potrebbe sembrare marginale. Cosa intendiamo per bevande? Di cosa stiamo parlando? In Cina c'è tutto un comparto di bevande a cui noi non succhi siamo. Succhi di frutta, per esempio. Ci sono delle bevande a base di acqua che poi contengono germogli e altre tipologie di essenze vegetali, alle quali noi non siamo assolutamente abituati e che però in Cina hanno una grandissima diffusione. Uh-huh. un comparto questo qui sterminato per dimensioni, che noi non vediamo perché evidentemente non c'è esportazione verso il nostro paese, certo. Ma all'interno hanno un grandissimo consumo e anche nel mercato asiatico ce l'hanno, quindi attenzione verso le bevande, così come verso alcuni prodotti sotto aceto o sotto alcune forme di spirito. Questi sono altri comparti nei quali le 5 priorità individuali del governo nazionale che saranno trattate quest'anno vogliono portare le maglie a percentuali altissime di controllo, si stringeranno parecchio. Va bene, il forum internazionale che riguarda questo argomento si svolge il 16 e 17 aprile a Pechino, tu ci sarai, vero Daniele? Io ci sarò, ci saranno 800 esperti da tutto il pianeta, da tutte le nazioni. La Cina sta cercando proprio di raccogliere le migliori esperienze da alcuni comparti, questo, l'ecologia e altri comparti che per loro stanno diventando sensibili. Il forum vedrà quindi dibattiti, collaborazioni, avvio anche di relazioni a livello internazionale, proprio per cercare di dare un contributo alle problematiche in questo paese, in questo settore, abbiamo visto essere molto serie. Benissimo, contiamo naturalmente che ci aggiornerai su quanto avverrà. A presto. Allora, è arrivato qualche particolare in più su queste minacce di attentati che contro gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sarebbero arrivate da Al-Qaeda, lo riferisce il CITE, il Centro Americano per il Controllo dei Siti Islamici, sarebbero arrivate da Al-Qaeda come ritorsione alla offensiva israeliana a Gaza attraverso un videomessaggio registrato da un dirigente del gruppo terroristico diffuso su internet. Notizie contrastanti, Dark Knight avrebbe avuto più nomination di quanto annunciato dai siti, mi scuso, una sola nomination di quelle che contano, non so come dire, quelle principali, major nomination come li chiamano gli americani, ha avuto molte nomination poi nei premi, diciamo, nei riconoscimenti di seconda fascia. È giusto precisare, come ci ha segnalato Andrea. Chiudiamo Jefferson Ming di oggi, io sono Stefano Pistolini, in relazione c'è Emiliano Enrico, vi ricordo la parte tecnica a Roma Valerio Rocchetti e a Milano Pietro La Corte, vi ricordo che abbiamo un indirizzo mail che per adesso galleggia così nel limbo, presto prenderà la forma del nostro nuovo nome, che vi ricordo è Jefferson2 l'arte della svolta, mentre invece sono attivi i due siti Facebook e tra l'altro è rimasta, come sentite qua sotto, militante e ben attiva Vivian Su. Comunque su Facebook cercateci a redazione Jefferson 2 per contattarci o Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, la bacheca, per discutere con noi. Il programma va in replica a mezzanotte, sappiamo che per tanti è tardi, ma sappiate che c'è anche il podcast che è raggiungibile attraverso il sito della radio www.radio24.it, c'è la pagina Jefferson Ming e tutti i collegamenti. Comunque la replica è a mezzanotte, la diretta invece la trovate come sempre domani attorno alle 4 qui su Radio 24.